E se sul serio tu mi vuoi bene, se sul serio sono il tuo pane, se davvero ti sciogli al sole quando ascolti le mie parole. E se davvero sono importante anche quando sono distante, se sul serio piangi spesso quando parlo con me stesso. Sei quello che sei. E toccarti io non oserei. Dai, mettiti comoda, non essere stupida, non fare la timida. Stai con me, stai con me, stai con me, mi piaci così. Come sei, mi piaci così, così come sei. Get it.